cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Bene sti dischi, vai G. Cammino di Gigi D'Agostino. Vai di cassa.